Il che se donc furre fissi di cruare da fidele si gelesa veristissima se le che vu complete fortine di fruare tra i setan secreso suverà chi ma se vi è cane sclava verremi purele assa confidante fidele asse te genies sir avege raison ah se ne pa possible not nuose te crira et te parle d'amour Thank you. scutar, fiesa ad cara, fiesa set fonte, morita tatia. Oh,